539. Pollo ripieno arrosto. Non è un ripieno da cucina fine, ma da famiglia. Per un pollo di mediocre grandezza, eccovi all'incirca la dose degli ingredienti. 2 salsicce, il fegatino, la cresta e i bargigli del pollo medesimo, 8-10 marroni ben arrostiti, una pallina di tartufo, in mancanza di questi, alcuni pezzetti di funghi secchi, l'odore di noce moscata, un uovo. Se invece di un pollo fosse un tacchino, duplicate la dose. Cominciate col dare alle salsicce e alle rigaglie mezza cottura nel burro, bagnandole con un po' di brodo se occorre. Conditele con poco sale e poco pepe a motivo delle salsicce. Levatele asciutte e nell'umido che resta gettate una midolla di pane per ottenere con un po' di brodo 2 cucchiaiate di pappa soda. Spellate le salsicce, tritate con la lunetta le rigaglie e i funghi rammolliti e insieme con le bruciate, con l'uovo e la pappa, pestate ogni cosa ben fine in un mortaio, meno i tartufi che vanno tagliati a fettine e lasciati crudi. Questo è il composto col quale riempirete il pollo e il cui ripieno si lascerà tagliar meglio ghiaccio che caldo e sarà anche più grato al gusto.